impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Ignazio Maffei. La pasta fresca che viene dal sud, di Alessandra Tedesco. Ci sono storie di italiani che vanno all'estero in cerca di fortuna, ma ci sono anche storie di nostri connazionali che, dopo un periodo di emigrazione, riescono a tornare ed avviare l'impresa in Italia. È il caso di Savino Maffei, fondatore del pastificio Maffei a Barletta, in Puglia. Per alcuni anni ha lavorato sulle navi che andavano in Australia facendo pane e pasta con le sue mani. Una gavetta utile per lo sviluppo futuro dell'impresa. E così, al ritorno in patria nel 1970, con i soldi guadagnati sulle navi e con qualche prestito delle banche, fondò il pastificio che aveva sede nel centro storico di Barletta. È il figlio Savino, Ignazio Maffei, ora a capo dell'azienda, a raccontarci la storia. La nostra storia ha inizio nel forno di famiglia, dove Savino Maffei, che è il fondatore dell'azienda, ha preso le prime tecniche dell'arte bianca. Già giovanissimo, a 19 anni, si imbarca sulle navi passeggeri e qui produce, impasta lievito e farina per alimentare appunto la speranza degli italiani che emigravano in quel tempo in Australia. Lui la fortuna però l'ha trovata chiaramente in Italia, quando ad un certo punto ha acquistato in una fiera di Bari una macchina per produrre pasta fresca. All'epoca orecchiette e cavatelli, categoricamente prodotti a mano. Chiaramente non esistevano all'epoca macchine con determinati automatismi, per cui c'era bisogno di una forte presenza di mano d'opera. All'epoca mi racconta che c'erano 20 ragazze, 20 donne che tutti i giorni producevano orecchiette fatte a mano. La macchina acquistata alla Fiera del Levante di Bari serviva per creare l'impasto, un semilavorato, ma le forme della pasta dunque venivano date ancora a mano. All'inizio le dimensioni dell'azienda erano ridotte e il mercato esclusivamente locale. La prima svolta avvenne nel 1982, quando Savino Maffei ebbe l'idea del sottovuoto. È il primo nel suo campo a utilizzare questo sistema, che gli permette di far arrivare orecchiette e cavatelli freschi in tutta Italia. In questo modo Maffei inizia a diventare un marchio riconosciuto, soprattutto nelle regioni del nord, come Lombardia, Piemonte e Veneto. Stranamente questa azienda ha avuto un percorso al contrario, per cui diciamo abbiamo venduto più orecchiette al nord che a sud, almeno questo inizialmente. Successivamente però poi alla fine c'è stata una specializzazione in questa categoria di prodotti e la produzione si è allargata con trofie liguri, maccheroni calabresi, strozzapreti emiliani, per cui una serie di prodotti che riprendono un po' un percorso gastronomico regionale italiano, come addirittura Bari Vecchia, che è l'ultima referenza nata in casa Maffei, dove lì riprendiamo passione, cultura e tradizione addirittura di un quartiere di una città, e questo è veramente straordinario. Dal 2006 iniziano una serie di investimenti nel ciclo produttivo. In 5 anni l'azienda raddoppia i volumi, raggiungendo i 7 milioni e mezzo di chili di pasta all'anno. Vengono avviate altre produzioni e così, accanto ai vari formati di pasta fresca di semola, vengono prodotti pasta fresca all'uovo e gnocchi con un sistema di lavorazione a freddo, cioè che non prevede la fase di pastorizzazione. Poi nel 2009 c'è stato un forte investimento in tecnologie e in macchinari e abbiamo lanciato anche una linea di pasta fresca all'uovo, quindi parliamo di lasagne, tagliatelle, tagliolini e pappardelle. Devo dire che mi piace ricordare che in questo passaggio mi hanno dato un po' del matto, perché un pugliese sicuramente, secondo alcuni, non può produrre pasta fresca all'uovo perché è nella vocazione, nella tradizione di una determinata regione. Però alla fine diciamo, posso dire che ho fatto un piccolo miracolo commerciale e ho dimostrato che la tradizione può essere regionale, ma la passione no. Poi successivamente nel 2011 ho anche lanciato una linea di gnocchi e oggi è la 10ª referenza più venduta in Italia, uno gnocco fatto a freddo, uno gnocco morbido, fondente, devo dire anche di qualità, che ci sta dando anche delle grosse soddisfazioni. Oggi il pastificio Maffei, unica sede a Barletta, è diviso in 3 aree distinte e indipendenti, una per la pasta di semola, una per la pasta all'uovo e una per gli gnocchi. Complessivamente ci sono 8 linee di produzione, che prossimamente diventeranno 11. Negli ultimi anni la produzione sta crescendo con numeri consistenti. Nel 2012 ha prodotto oltre 9 milioni di chili di pasta fresca, 1 milione in più rispetto all'anno precedente. Nel 2013 la produzione è cresciuta di più di 3 milioni, arrivando a 12 milioni e mezzo di chili all'anno. E nello stesso 2013 è stato messo in pratica il restyling completo del logo e del packaging di tutte le linee di prodotto. I dipendenti sono 75, 21 milioni il fatturato annuo. Il mercato è prettamente italiano, solo il 2% va all'estero. E per quanto riguarda la pasta fresca di semola, Maffei copre una quota di mercato del 20% a volume. Il pastificio lavora soprattutto con la grande distribuzione. Qui devo dire che l'azienda ha due anime, un'anima legata al marchio Maffei e un'anima legata alla marca privata, per cui produciamo pasta fresca, che sia semola, che sia uovo, che sia gnocchi, per le grandi insegne nazionale, per cui è un rapporto abbastanza equilibrato. Il core business rimane ancora la pasta fresca di semola, ma cresce l'uovo, la pasta all'uovo, un peso del 20% sul totale azienda e gli gnocchi allo stesso tempo con un peso del 10%, ma sono numeri destinati a cambiare nei prossimi anni. In questi anni di sviluppo dell'attività non sono mancati i momenti difficili, per i quali però Ignazio Maffei ha una ricetta. Gestire un'azienda non è mai facile, per cui diciamo i momenti di crisi sono sempre dietro la porta, però voglio dire che la forza di questa azienda è la famiglia. E tutti assieme insomma abbiamo superato anche qualche momento difficile. Sulla crisi è una mia opinione, la crisi non è come il postino che bussa alla porta da un momento all'altro o si manifesta in un esercizio commerciale. Ha una forbice temporale che mediamente va dai 4, 5, 6, 7 anni, per cui questa azienda si è sempre fatta trovare pronta, è riuscita a leggere il mercato, a capire che la socialità stava cambiando e quindi a investire per essere competitiva sempre. Gli investimenti hanno riguardato soprattutto l'innovazione tecnologica e ultimamente c'è stato anche l'aiuto della Regione Puglia attraverso i fondi europei. Tutti gli anni ci sono investimenti in tecnologia, perché alla fine la tecnologia ti aiuta anche a vendere un prodotto di qualità, per cui posso dire che sono abbastanza favorevole agli investimenti tecnologici. L'ultimo investimento è effettuato riguarda un piano di sviluppo delle nuove linee di produzione legate alla produzione della pasta fresca di semola. L'investimento totale è di 3 milioni e mezzo di euro e la Regione Puglia ci restituisce il 40% a fondo perduto. Sono numeri veramente importanti, numeri che ci aiutano anche a guardare avanti con ottimismo. Negli ultimi tempi la strategia comunicativa di Maffei cerca di associare il marchio a contesti come la moda, il design, l'arte e il cinema. In particolare punta sul connubio moda-food. È in questo senso che è stato fatto il restyling del logo e del packaging, curato dallo stilista Marco Coretti. Quanto al cinema, è stata rinnovata per il 2015 la partnership con la casa cinematografica americana Universal Pictures. Già nel caso del film Cattivissimo Me 2, c'era stata una campagna congiunta sottolineando la somiglianza tra i buffi protagonisti del film, i Minions, e gli gnocchetti della linea Tenerotti. Lo stesso connubio Maffei-Universal verrà replicato per l'uscita della terza puntata del film, prevista ad agosto 2015. In futuro, il pastificio intende insistere ancora su questo tipo di partnership. Quanto ai prodotti, tra gli obiettivi futuri di Ignazio Maffei, c'è anche quello di proporsi come un giovane Giovanni Rana del Sud, come lui stesso ammette sorridendo. Il nostro primo obiettivo è quello di migliorarci giorno per giorno. Però è nelle speranze dell'azienda quello di produrre una linea di pasta ripiena per essere poi alla fine completo nella categoria della pasta fresca in generale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.